rico. If I portami via, io per lei ho deciso di cambiare, di smettere di rovinare sempre tutto per colpa della solitudine. Ching.